Leon viene uccisa con l'accetta. Il volto diviso a metà. Un'altra viene strangolata. Un'altra ancora impiccata. Un'altra tagliata a pezzi con la motosega. Un'altra annegata nell'acqua bollente. La gola dilaniata da un gatto inferocito. Bruciata viva. Sepolta viva. Torturata, acciugata, pugnalata, segata in due. Crocifissa.